Ciao, appunto, magari possiamo iniziare appunto descrivendo un po' quello che è la proposta, questa proposta di legge Sacconi, e vedere un po' le conseguenze che ha appunto sulle ricadute, sulla sicurezza sul lavoro e la condizione di vita dei lavoratori in Italia. Sì, allora, innanzitutto faccio una premessa che attualmente in Italia tutta la normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è contenuta sostanzialmente nel decreto legislativo 8108, il cosiddetto testo unico sulla sicurezza. Decreto legislativo che deriva dalla somma, diciamo, delle direttive comunitarie che sono intervenute dall'89 a oggi per regolamentare questa materia, ma che tiene conto anche di quelle che erano le normative precedenti degli anni 50, degli anni 55-56 di tutela dei lavoratori. Allora, l'8108 è stato nel tempo modificato alla sua uscita, così com'era, è stato giudicato un testo completo, non perfetto, sicuramente perfettibile, ma un testo adeguato alla tutela, se applicato in maniera corretta, chiaramente adeguato alla tutela dei lavoratori. È stato modificato nel corso degli anni sempre in maniera peggiorativa, sono stati tolti dei pezzi di qua e di là, sono state diminuite le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti, insomma è stato un pochino ritoccato al peggio, però tuttora rimane un testo valido, nel senso che le garanzie che garantisce ai lavoratori sono di una notevole importanza ed estensione. L'altra, una delle novità importanti che introdusse il testo unico rispetto ad esempio alla 626 che c'era prima, la definizione di concetto di lavoratori, dove si inseriva all'interno di lavoratore tutte le forme di lavoro subordinato indipendentemente dalla tipologia contrattuale, quindi andando a introdurre anche tutte quelle serie di lavoratori, diciamo, atipici, quindi interinali, lavoratori a progetto e così via. Allora, partiamo proprio da questo. Il disegno di legge Sacconi parte nelle varie proposte di peggioramento, parte proprio dalla definizione di lavoratori, quindi va a eliminare in maniera sostanziale tutte quelle che sono le forme appunto di lavoratore atipico, quindi andranno a sparire dal campo d'applicazione, se dovesse passare questo disegno di legge e diventare legge o decreto, andranno a sparire tutte quelle figure che attualmente sono invece garantite dal testo unico, che tra l'altro stiamo vedendo nel mercato del lavoro stanno diventando via via sempre in percentuale il numero maggiore. Quindi primo effetto negativo della legge Sacconi sarebbe ridurre sostanzialmente il numero di lavoratori effettivamente tutelati dalla legge sulla sicurezza. La seconda cosa che è, diciamo, ai limiti del ridicolo, se non fosse tragico, è che io penso che gli ascoltatori sappiano che la normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori parte da tutta una serie di obblighi normativi, ma parte da un processo di valutazione dei rischi che è a capo di responsabilità totale del datore di lavoro, quindi di colui che detiene i poteri decisionali di spesa, e che è il processo di valutazione dei rischi, appunto. Cioè il datore di lavoro, al di là di adempiere a tutta una serie di obblighi che sono puntualmente riportati nel decreto, deve comunque fare una valutazione di quelli che sono i rischi per la sicurezza e sulla base di quelli definire delle misure di prevenzione e protezione e definire di conseguenza anche un programma di adempimenti di queste misure. Allora, col disegno di legge Sacconi tutto il concetto di valutazione del rischio viene praticamente cancellata e viene demandata a dei non ancora ben definiti tecnici, se si immaginano siano medici competenti o consulenti della sicurezza sul lavoro, una sorta di certificazione dello stato aziendale, andando poi, non si sa ancora bene in dettaglio in che modo, comunque a certificare appunto che l'azienda è a norma con i parametri, di legge. Cosa chiaramente, quindi si va innanzitutto a delegittimare completamente il datore di lavoro, che potrà sempre dire: sono stati questi tecnici che mi hanno certificato in maniera errata, io non c'entro niente. E dopodiché ovviamente ci sarà la caccia, come al solito in questi casi, al consulente meno pagato, che pur di prendere un lavoro sarà disposto a firmare un documento in cui dice che le cose vanno tutto bene, magari senza aver nemmeno visitato e visto l'azienda. Cosa dire ancora? Beh, sicuramente il discorso, questo qua è legato anche alla nuova agenzia del lavoro, nuova agenzia dell'ispettorato del lavoro unico creato col Jobs Act, ci sarà a vedere un attimino quelli che diventeranno i ruoli di controllo e di vigilanza da parte degli organismi ispettivi, che oggi sono affidati alle ASL, che raramente, perché non hanno gli organici a sufficienza per coprire tutto il territorio nazionale, comunque chiaramente fanno comunque attività di ispezione con possibilità di sanzioni e prescrizioni. Queste sanzioni verrebbero eliminate e verrebbero sostituite da una prescrizione, quindi praticamente l'ispettore va, vede se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che non va non fa una sanzione penale, quindi con denuncia al pubblico ministero, si limita a dire: mettimi a posto le cose, poi torna fra qualche giorno e vediamo se le cose sono state messe a posto e via. Quindi anche qua si va a ridurre ulteriormente il potere deterrente che attualmente è in mano ai pochi organismi di controllo che riescono comunque a fare il controllo. Da ultimo, sembrerebbe è contenuto nella ipotesi di decreto, di disegno di legge, il controllo sanitario dei lavoratori al di là delle reali necessità di sorveglianza sanitaria, cioè oggi le visite mediche vengono fatte ai lavoratori in funzione dei rischi a cui sono sottoposti e niente di più, un domani potranno essere estesi a tutte quelle che sono gli aspetti sanitari dei lavoratori, quindi tra l'altro in totale contrasto con quello che è l'attuale statuto dei lavoratori. Sì, allora. Questo diciamo sono le cose principali. Ecco, l'altra cosa è appunto la completa responsabilizzazione del datore di lavoro, che potrà sempre rifarsi dirigenti, preposti e lavoratori, nel senso che una volta che avrà detto, tramite quella certificazione di cui dicevo prima, la fabbrica a posto, se succede qualcosa non è colpa del datore di lavoro, perché la fabbrica lui l'ha messa a posto teoricamente, è colpa a questo punto del lavoratore, perché ha sbagliato a fare qualcosa. Sì, io in precedenza, in introduzione, mi sono dimenticato di presentarti, sei un compagno di Medicina Democratica, sì, e sì, appunto sì. Con Medicina Democratica avete diffuso comunque un comunicato dove comunque viene spiegata abbastanza bene i punti salienti di questa proposta. Sì, io sostanzialmente ho riassunto questo comunicato, non ho detto niente di più, niente di particolare. Comunque sì, se è diffuso sul sito di Medicina Democratica, si trova, quindi si può trovare facilmente, ecco. Sì, io magari volevo tornare un po' sul primo punto che anche qui spiegato, è quello appunto della definizione del lavoratore, in un certo senso, che appunto l'esigenza di fare questa trasmissione nasce da un clima particolare sul mondo del lavoro, appunto come dicevamo in precedenza, le morti sul lavoro che ci sono stati in queste ultime settimane, e a questo proposito, come seconda corrispondenza, sentiremo Carlo Soricelli dell'Osservatorio sì. Morti sul lavoro di Bologna, che magari ci potrà fare un quadro migliore. Però che un po' il contesto all'interno del quale questo disegno di legge viene proposto e cerca di avanzare è appunto quello di una crisi comunque che si fa sempre più forte e che viene scaricata sempre di più sui lavoratori, e vediamo come questo disegno di legge scarichi anche la responsabilità in caso di infortuni sul lavoratore. Ma appunto c'è la questione del lavoratore, cosa si intende oggi, cosa vuole far intendere questo disegno di legge come lavoratore. Tu ci dicevi appunto che le forme atipiche vengono totalmente tirate fuori da praticamente la definizione che a questo punto viene data di lavoro è persona impiegata in modo non episodico per attività di lavoro. Quindi non episodico vuol dire uno che ha un contratto a tempo determinato e indeterminato, e quindi mi toglie, cioè, siccome non so, un lavoratore interinale, un lavoratore a voucher, sono tutti lavoratori episodici, chiaramente a quel punto lì me lo toglie da definizione di lavoratore. Quindi tutte quelle che sono le cautele, le poche cautele che rimangano secondo questo disegno di legge, vengano escluse completamente dai lavoratori che lavorino in maniera episodica, che ormai stanno diventando un'enorme percentuale, perché si sa bene, le aziende in nome della flessibilità tengono 100 dipendenti, poi 20-30 li fanno ruotare fra interinali, stagisti e varie forme di lavoro atipico. Quindi, tutti questi verrebbero esclusi. Ciao, sono un altro compagno, insomma, qui nello studio. Io ho ascoltato, insomma, il tuo intervento. Evidentemente, un po' come ha detto il compagno prima, noi qui facciamo una trasmissione Corrispondenza Operaia che cerca un po' di raccontare qual è la situazione, soprattutto magari di vertenze, di lotte nel mondo del lavoro. Però cerchiamo di un po' stare attenti al contesto. A me sembra importante, diciamo, il ragionamento che avete fatto voi, espresso nel documento e che tu ci hai risintetizzato, di rapportare poi, diciamo, qual è uno dei punti che mi sembra essenziale, diciamo, in questa proposta di legge di Sacconi. Evidentemente, diciamo, il rapporto che c'è poi tra questa evoluzione della legge al contesto in cui siamo, diciamo, nella situazione lavorativa, è l'esempio sicuramente del concetto di lavoratori atipici, che mi sembra che al contrario ormai la maggioranza dei lavoratori sono atipici, sì, praticamente, sì, quindi, sì, sì, quindi, diciamo, rapportare il valore politico che assume questo disegno di legge è rapportato al contesto, un contesto dove evidentemente, diciamo, i rapporti di forza interno al mondo del lavoro sono evidentemente sbilanciati, diciamo, tutto il mondo del lavoro ha subito, io ormai uso al passato, ha subito una forte ristrutturazione che sostanzialmente, diciamo, ha eliminato gran parte delle tutele, gran parte dei diritti che sono stati, diciamo, che erano stati acquisiti nei decenni precedenti, e oggi ci ritroviamo in una situazione molto difficile in questo, probabilmente una cosa di cui se ne parla poco, o solo se ne parla solo quando, diciamo, ci sono casi eclatanti di morti sul lavoro, è proprio la tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza che non è appunto, non va ricordata semplicemente quando poi c'è la tragedia, ma sappiamo bene che di infortuni, anche diciamo di infortuni sul lavoro, ogni giorno ne capitano spesso, e in questo clima evidentemente, diciamo, un disegno di legge così è una precisa, diciamo, indicazione politica che viene data, diciamo, sì, al mondo del lavoro. Io un po' questa è una riflessione che naturalmente volevo un po', diciamo, di confronto con te, poi, diciamo, la domanda insomma che ti fecimo anche qualche mese fa quando ci risentimmo sempre in questa trasmissione è, diciamo, che cosa sappiamo noi, insomma, voi compagni, insomma, su questo tema vi muovete tanto e soprattutto cercate di controinformare tanto, diciamo, la situazione, però qual è dalla tua percezione il clima, diciamo, sindacale che si respira per provare, diciamo, a se ci sono forme di contrasto, diciamo, anche su consapevoli delle difficoltà che ci sono poi in verità in questo momento, qual è il clima, diciamo, di dibattito interno ai sindacati piuttosto che interno ai luoghi di lavoro rispetto a questo possibile disegno di legge? Beh, allora, innanzitutto sì, concordo pienamente sul fatto che questo disegno di legge si inserisce in una manovra, diciamo, politica che sta andando avanti ormai da 2 anni, che è quella della delegittimizzazione totale del diritto al lavoro. Quindi un po' alla volta quelli che sono i diritti costituzionali del lavoro, quindi non soltanto della salute e della sicurezza di cui mi occupo in particolare, ma in generale della tutela al lavoro dignitoso, pagato proporzionalmente a quello che si fa, eccetera eccetera, stanno venendo stravolti, uccisi. Questo è un al di là di quello che sarà poi il referendum di dicembre, già stiamo avendo degli attacchi alla Costituzione sul tema del lavoro in particolare, che sono stati pesantissimi. E questo, ovviamente, questo disegno di legge chiaramente rientra in quest'ottica. Ricordiamoci che poi l'ottica padronale è quella: non voglio avere problemi a dover spendere dei soldi per tutelare i lavoratori, perché tutti i soldi che spendo per tutelare i lavoratori non sono comunque sono investimenti non produttivi, sono costi non produttivi che mi riducono il profitto, punto e basta. Riguardo alla risposta dei lavoratori, allora sul tema particolare di questo disegno di legge non ho avuto modo di confrontarmi se non con i compagni di Medicina Democratica e diciamo raccogliendo un pochino alcuni spunti che ho trovato in rete, che sono comunque poi ovviamente di parte, chiaramente ripetono quello che ho detto io, che è un gravissimo attacco alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Per quanto riguarda invece in generale, lasciando perdere il disegno di legge, quindi rapportandoci a quelle che sono le modalità operative attuali di fare sicurezza, la mia esperienza dice che ci sono molti lavoratori che sono interessati, percentualmente dipende, nel senso che io ho partecipato anche a assemblee presso luoghi di lavoro, l'ultima che ho partecipato questo lunedì, un'azienda metalmeccanica, erano presenti con 160 lavoratori, gli 80 che erano fuori turno, quindi che potevano partecipare all'assemblea, erano tutti presenti, quindi possiamo dire che avendola potuta fare sui tre turni avrebbero partecipato tutti e sono stati tutti molto sensibili a quello che ha detto la RLS, cioè il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e quello che poi sono andato io a spiegare come tecnico, tanto che poi è uscito un documento di richiesta all'azienda votato all'unanimità per alzata di mano di fare tutta una serie di interventi. Quindi sensibilità c'è, non è molto diffusa, nel senso ci sono quelle aziende in cui la RLS ha un ruolo più propositivo e più informativo e in cui riesce più a coinvolgere le persone, ci sono quelle aziende in cui magari la RLS sta dalla parte del padrone, per cui i lavoratori lavorano in condizioni di ignoranza estrema rispetto a quelli che sono i diritti, c'è comunque il solito ricatto che si fa sempre più pesante, il solito baratto tra salute, sicurezza e posto di lavoro, quindi i lavoratori sarebbero anche disposti a combattere per la loro salute e sicurezza, gli RLS sarebbero anche disposti a fare quello che gli viene concesso dalla legge, solo che poi c'è sempre la paura, sì, ma se faccio, se mi muovo, se denuncio, rischio comunque poi di avere delle ritorsioni. Ritorsioni che ci sono. Io conosco compagni RLS che sono stati minacciati in maniera più o meno avverata e che in qualche caso hanno dovuto rinunciare al proprio ruolo per le minacce pesanti che gli erano state fatte. La situazione è anche questa, anche perché manca poi, io lavoro con molti sindacati di base, però non c'è, diciamo, ci sono varie realtà sparse nel territorio, in qualche caso sono più pesanti perché hanno più seguito da un punto di vista dei lavoratori, in qualche caso sono un pochino più isolate, però comunque alla fine manca uno spirito unificatore di lotta comune per la salute e la sicurezza sul lavoro e per in generale i diritti sul lavoro. Senti, diciamo che aggancio a questa tua riflessione per insomma fare un'ultima considerazione con te, che naturalmente noi insomma abbiamo col tuo aiuto abbiamo cercato di rapportare un po' la questione di sicurezza sul lavoro, diciamo, al contesto un po' di ristrutturazione, abbiamo parlato un po' come questo va a inserirsi in quella diminuzione totale dei diritti che poi c'è stata, della possibilità, diciamo, a quindi anche dei vari rappresentanti di con la situazione della crisi. Giustamente tu hai fatto bene a ricordare che in questo momento i lavoratori sono fortemente ricattabili, appunto, diciamo, ci sono alti tassi di disoccupazione e le aziende tendenzialmente hanno quest'arma a proprio favore. C'è un'altra cosa che è anche questa collegata a questo punto e che è collegata alla sicurezza, è che evidentemente la ristrutturazione è avvenuta in quella che è l'organizzazione del lavoro, detta in parole povere, sostanzialmente ormai si lavora in un modo molto più veloce, si lavora di più ore, molte più ore, chi lavora possiamo dire lavora molte più ore e a ritmi molto più veloci, e evidentemente uno dei punti dal mio avviso controversi anche nella questione sindacale, soprattutto per quanto riguarda i confederali, è in un certo senso pure questo dibattito interno rispetto all'organizzazione del lavoro, non c'è stato mai negli ultimi anni soprattutto un vero ragionamento di contrasto a quello che è stata la ristrutturazione in questo lato del discorso. Tu giustamente hai ricordato rispetto al disegno Saccone, di legge Sacconi, rispetto alla questione della valutazione dei rischi, giustamente diciamo più specifici rispetto diciamo alla sicurezza sul lavoro, ma la valutazione dei rischi diciamo è un ambito che ormai diciamo rientra, no, in tutto quello che poi è il modo di lavorare dentro i luoghi di lavoro. Ecco, diciamo in questo ci sono casi importanti, la Fiat è evidentemente uno di questi, dove diciamo contrasti sindacali, contrasti sull'organizzazione del lavoro hanno avuto anche una certa spinta, una certa risonanza, però poi purtroppo diciamo vengono sempre fermati anche dalle divisioni sindacali che su questo tema poi sono molto molto importanti e pesanti. Insomma, non era una domanda, era diciamo un po' un'ultima riflessione, se volevi aggiungere. Sì, certo. No, giustamente posso aggiungere questo. Come tecnico è chiaro che tutti quelli che sono gli aumenti dei ritmi produttivi vanno a scapito di quella che è soprattutto la salute, nel senso sia la salute fisica che mentale. Lo stress non è indifferente a questo. Esatto, e tra l'altro la normativa attuale prevede che i livelli di salute e sicurezza non si possano mai diminuire, si possono solo aumentare, quindi cioè, tutti questi incrementi dei ritmi produttivi sono di fatto un mancato adempimento a quello che dice la legge. I signori se lo possono permettere perché ci sono alcune forze sindacali che in cambio di mantenimento del posto di lavoro oppure del premio di produzione ammettono che si intensificano del 5, del 10, del 20% quelli che sono i ritmi lavorativi. Va bene, senti, insomma, diciamo noi da questi microfoni lo abbiamo detto anche più volte e ci teniamo molto, diciamo il nostro piccolo contributo è quello di provare a fare controinformazione. Ringrazio, quindi ci vuole tanta informazione su questo, perché ti dico, molti conoscono, molti pochi sanno quali sono i loro diritti e che cosa rischiano nel futuro. Esatto, e poi soprattutto anche in questo un po' i giovani, insomma la componente giovanile che insomma comincia a introdursi nel mercato del lavoro in una situazione molto complessa, insomma il nostro spirito è quello di provare appunto a mettere in evidenza tematiche importanti, e ci sembra che in questa fase questa tematica sia molto molto importante, e probabilmente diciamo fare controinformazioni su questo oggi può essere diciamo un qualcosa di utile, quindi dico questo per rinnovare l'invito, diciamo noi da questa trasmissione ci farebbe piacere continuare un po' questo livello del discorso diciamo facendo delle puntate diciamo nel tempo e organizzandoli insieme a voi che su questa tematica ci dà grande contributo. Io sono sempre disponibile. Perfetto.